Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Fratelli d'Italia, d'Italia se ne sta, se ci dà la testa, dov'è la vittoria che torna. Insomma, diciamo, sono commoventi, senz'altro ammirevoli, sono gli sfollati di Norcia e insomma delle zone terremotate che oggi hanno cantato l'inno nazionale insieme al Presidente della Repubblica Mattarella, che è stato lì in visita a trovarli, ad abbracciarli, a cercare di rincuorarli e a promettere anche, dice, faremo tutto quello che lo Stato può fare. Hanno cantato l'inno nazionale insieme a lui. Di questo parleremo, torneremo a parlarne naturalmente del terremoto che ha colpito il centro Italia e poi... Fra gli altri temi, per alleggerirci, c'è la Juventus in Champions League, dovrebbe essere iniziata da pochissimo la partita contro il Lione e poi anche l'intervento di Renzi oggi su vari argomenti, tra cui qui a Radio 24 l'aver stoppato, come si dice, Alfano sull'ipotesi di rinviare il voto sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. È stato un coro di no, ma soprattutto Renzi, Presidente del Consiglio, ha detto no, se ne fa nulla di questa cosa, abbiamo altre vicende di cui discutere. Come al solito molti temi qui a Effetto Notte, a parte la ricostruzione della giornata tra pochissimo. Vi ricordo che per interagire, come sempre, qui c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per interagire col programma, oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. E come sempre, prima di tutto, capiamo che giornata è stata. Presidenziali americani, Obama difende Hillary sul caso delle email e critica l'FBI. Non operiamo, dice, sulla base di soffiate e i timori su una possibile vittoria di Trump mandano in rosso le borse europee. Terremoto, il Presidente della Repubblica Mattarella in visita nelle zone terremotate assicura faremo tutto quello che uno Stato può fare. Referendum Renzi a Radio 24 taglia corto sulla proposta di Alfano di rinviare il voto. Non esiste, dice, nessuna ipotesi di slittamento. Iraq, ci sarebbe anche il capo dell'ISIS al Baghdadi tra i vertici del califfato rifugiati a Mosul. Strage familiare a Genova, un poliziotto uccide la moglie e le due figlie di 6 e 14 anni nel sonno, poi chiama il 113 e si suicida. Tecnologia, il mondo naviga con smartphone e tablet, sorpassati i PC a ottobre per la prima volta, ma l'Italia è in controtendenza. Calcio per la Champions League, a Torino la Juventus in campo contro il Lione a caccia degli ottavi di finale. Partiamo quindi dalle elezioni presidenziali americane. A meno di una settimana dal voto, il presidente uscente Barack Obama ribadisce il proprio appoggio a Hillary Clinton. Hillary Clinton ha commesso un errore ingenuo ma che è stato ingigantito in maniera esagerata. Barack Obama a 6 giorni dal voto, mentre impazzano i sondaggi che ora danno Trump e la Clinton impegnati in un serrato testa a testa, rompe il silenzio. Il presidente difende la candidata democratica travolta dalla nuova inchiesta dell'FBI sull'utilizzo di un server di posta privato quando era segretario di Stato. Se veramente avete a cuore la mia presidenza e quello che abbiamo fatto in 8 anni, votate e se non hanno ancora votato, dite a vostra madre, ai vostri nipoti, ai vostri cugini di votare, spiega Obama in un'intervista. Se Donald Trump vince, ci saranno tagli delle tasse per i più ricchi, la gente non avrà più un'assistenza sanitaria, taglieranno i sussidi per gli studenti e, conclude il presidente americano con una battuta, demoliranno l'orto di Michelle alla Casa Bianca. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla borsa e sui mercati europei tutti negativi, pesa l'eventuale ascesa di Donald Trump alla Casa Bianca. Ne risente anche lo spread, cioè il differenziale di rendimento tra BTP e Bund tedeschi, che oggi ha sfondato in giornata i 160 punti base e in questa giornata negativa per la borsa di Milano, con l'indice principale che ha perso il 2,5%, il titolo Stefanel ha perso quasi il 40% dopo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo per far fronte a un indebitamento di 87,4 milioni e un rosso di 13,3 milioni nei primi 6 mesi dell'anno. E ora Renzi a Radio 24, oggi dal terremoto al referendum, dalla legge di bilancio al rapporto con Bruxelles, molti temi su cui è intervenuto Renzi. Il primo pensiero all'indomani della visita a Prece per le popolazioni colpite dal terremoto. Venerdì arriverà un decreto che semplificherà le procedure burocratiche, soprattutto per gli interventi immediati. Impossibile ad oggi quantificare i danni, naturalmente, ma il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, intervenuto ad effetto giorno, anticipa che se ci sarà bisogno di margini più ampi, l'Italia non si farà problemi. Ci sono degli spazi di azione, poi se vi sarà bisogno di avere più risorse, ricorrendo a ulteriori spazi, in questo caso di deficit, se ci sarà bisogno per rimettere a posto, noi metteremo i denari necessari. È questo solo uno dei tanti fronti di dialettica con l'Europa. L'altro è senza dubbio quello dei migranti. Lo scontro con alcuni paesi dell'est è aperto. Renzi ricorda che siamo contributori netti dell'Unione Europea, che di questo ha beneficiato per esempio anche l'Ungheria, che oggi rifiuta l'accoglienza. Ribadisce che il governo è pronto a mettere il veto sul bilancio europeo. Più onori ed oneri per tutti. L'immigrazione non ci lasciate soli a gestirla e poi pensate di prendere i nostri soldi. Infine, la polemica del giorno, quella sull'ipotesi di rinvio del referendum. A lanciare l'idea è il ministro Alfano, che dice è da tenere in altissima considerazione se le opposizioni lo chiederanno. Ancora Renzi. L'ipotesi dello spostamento del referendum però non esiste, punto. Io trovo che questo dibattito sia abbastanza surreale. Dichiarazioni che sembrano chiudere la partita. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parlava quindi anche naturalmente del terremoto. Renzi, che ha colpito il centro Italia, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato, come vi dicevo oggi, in visita nelle zone colpite dal sisma. Strette di mano, abbracci e promesse, Sergio Mattarella porta la vicinanza e la solidarietà delle istituzioni alle popolazioni colpite. Prometto impegno e lavoro fino alla fine, dice ad uno sfollato in lacrime al Palazzetto dello Sport di Camerino. Ci siamo e non vi lasceremo soli. Il capo dello Stato, di ritorno da Tel Aviv, va prima a Camerino, poi a Norcia, infine a Maggione, sul lago Trasimeno, dove da giorni stanno arrivando gli sfollati che hanno lasciato le loro terre. Ricostruiremo tutto com'era, faremo tutto quello che uno Stato può fare. Promette ancora Mattarella l'impegno a fare presto e bene dunque, e tutto questo mentre si lavora per capire come ricostruire i borghi e come sistemare i container. I primi arriveranno in 15-20 giorni, ha detto il capo della protezione civile Curcio, ma solo per le persone che hanno una reale necessità come un'attività lavorativa in loco. 22.000 in totale le persone assistite dalle protezioni civile, 200.000 le case lesionate, 4 volte più dell'Aquila. E poi c'è da far ripartire l'economia con almeno 10.000 posti di lavoro da salvare, secondo Coldiretti, mentre rischia di crollare anche l'indotto del turismo enogastronomico. Solo nella zona dei Monti Sibillini sono 220.000 i turisti ogni anno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ma quali sono le risorse per l'emergenza terremoto e la ricostruzione? I punti sono presenti nella manovra economica. Il prossimo anno ministeri, regioni e comuni potranno contare su 6 miliardi da spendere per la messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e la ricostruzione post-terremoto. A fare la stima delle risorse disponibili è il Ministero dell'Economia. Oltre ai fondi stanziati con la manovra e i decreti sul terremoto, secondo Via 20 Settembre, per il 2017 ci sono anche disponibilità nel conto della pubblica amministrazione, somme già conteggiate per terremoti precedenti, quelli di Amatrice e Norcia. La manovra intanto muove i primi passi alla Camera. Da venerdì in Commissione Bilancio partiranno le audizioni di parti sociali, associazioni ed enti. Sempre in Commissione Bilancio Camera, oggi ha preso il via l'iter del decreto legge fiscale collegato alla manovra. Per l'amministratore delegato di Equitalia, le domande per la rottamazione delle cartelle esattoriali dovranno arrivare entro il 23 gennaio. I commercialisti chiedono più rate per la rottamazione, mentre per la Guardia di Finanza la nuova comunicazione trimestrale telematica dell'IVA è uno strumento fondamentale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di nuovo all'estero, in Iraq si continua a combattere nella città di Mosul. Prosegue l'offensiva su Mosul. Dopo l'entrata in città dalla parte est nei giorni scorsi, le milizie sciite filo-iraniane che partecipano alle operazioni anti-ISIS avanzano anche da ovest, affermando di aver conquistato in giornata altri 115 km quadrati di territorio. La morsa si stringe intorno alla roccaforte irachena dell'ISIS, dove sarebbe rimasto intrappolato il fondatore e autoproclamato leader del califfato Abu Bakr al-Baghdadi. A rivelarlo fonti governative della regione del Kurdistan iracheno, secondo le quali se la presenza di al-Baghdadi fosse confermata, la battaglia potrebbe prolungarsi prolungarsi perché i miliziani resisterebbero sino alla morte pur di proteggere il loro capo carismatico. Gli jihadisti, messi alle strette, già intensificano le rappresaglie nei confronti dei civili e degli ex membri delle forze di sicurezza. Decine di giovani sarebbero stati rastrellati e poi rinchiusi nelle moschee del centro. Ed esplode l'emergenza sfollati. Sono quasi 18.000, metà delle quali minori, le persone fuggite a seguito delle operazioni militari per riprendere Mosul, secondo l'UNICEF, che denuncia anche l'utilizzo di bambini kamikaze, almeno 3 nell'ultima settimana di ottobre, oltre 30 nell'intero 2016. A questo si aggiunge l'inasprirsi delle tensioni sul fronte geopolitico, con Baghdad che minaccia Ankara. Se le truppe turche mettono piede in Iraq, pagheranno un caro prezzo, ha avvertito il premier iracheno al-Abadi dopo lo schieramento turco di carri armati al confine. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora Stati Uniti, per la notizia per la quale la polizia dell'Iowa ha arrestato Scott Michael Green, l'uomo ricercato per gli agguati nei quali sono stati uccisi 2 poliziotti vicino a Des Moines. Francia, è terminata nel pomeriggio l'evacuazione dei 1.500 minori non accompagnati che risiedevano ancora nei container dell'ex cosiddetta giungla dei migranti a Calais, nel nord della Francia. Questa mattina, intorno alle 8, era cominciato il trasferimento verso 60 centri di accoglienza in tutta la Francia. E ora in Medio Oriente, dove c'è stata la protesta delle donne al Muro del Pianto. Una manifestazione, sentite, stringendo la Torah, il libro sacro, fra le braccia per chiedere che alle donne vengano concessi gli stessi diritti degli uomini durante le preghiere al Muro del Pianto a Gerusalemme, che è uno dei luoghi più sacri per la religione ebraica. Circa 200 persone, chiamate a raccolta dall'associazione Le Donne del Muro, hanno marciato in direzione del Muro del Pianto e della zona normalmente proibita alle donne. Fra le proteste degli ebrei, li sentite, ortodossi, che hanno tentato senza successo di bloccare la manifestazione provocando qualche momento di tensione. Attualmente solo agli uomini è concesso indossare lo scialle per la preghiera, la kippa, leggere la Torah a voce alta intonando i canti davanti al Muro del Pianto, mentre le donne possono pregare solo in uno spazio a loro dedicato. Siamo alla politica italiana, il tema del giorno è un'ipotesi di slittamento avanzata da Angelino Alfano, ma la proposta è caduta nel vuoto immediato, come avete sentito prima è scattato il veto di Renzi che lo definisce surreale e anche da parte delle opposizioni. Quel che conta non è il futuro del paese, dice Renzi, se vince il no è chiaro quel che farò, quel che conta è il futuro del paese, Grillo dice Renzi ci lasci votare, Brunetta di Forza Italia e sarebbe da irresponsabili farlo slittare, così anche Bossi, forse Alfano ha paura del voto, ha detto, poi torneremo a parlarne. Domani intanto parte il bonus per i diciottenni. Il sito di riferimento per i diciottenni è 18app.it. Ci si potrà iscrivere entro il 31 gennaio del prossimo anno, mentre la somma a disposizione potrà essere spesa entro il 31 dicembre del 2017. Al bonus hanno diritto tutti coloro che hanno compiuto o compiranno i 18 anni entro il 2016. Per ottenere 500 euro occorre assicurarsi lo SPID, ovvero la carta d'identità virtuale che permette il riconoscimento di ogni giovane. I canali che permettono di ottenere questa identità digitale sono al momento Poste, TIM, InfoCert e Sielt. Tramite questi provider saranno assegnate le credenziali per essere riconosciuti e poi utilizzare il bonus. Sono più di un migliaio gli esercenti intanto che si sono registrati e che offriranno beni e servizi legati all'iniziativa. Tra le proposte a disposizione c'è l'acquisto di libri, la possibilità di ottenere ingressi a spettacoli, mostre o parchi naturali, ma anche a concerti e cinema. Nell'elenco non sono invece inclusi computer, tablet, musica online o film in streaming. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di migranti, nuova strage nel Mediterraneo. Un gommone si è avventurato in mare nonostante le condizioni proibitive, affondando a 25 miglia a nord delle coste libiche. I soccorsi hanno tratto in salvo 29 persone, recuperato 12 cadaveri e continuano le attività di ricerca. E poi la cronaca, questa strage familiare a Genova, praticamente un triplice femminicidio, un uomo, un poliziotto di 50 anni ha ucciso la moglie e le figlie mentre dormivano, quindi nel sonno, poi ha chiamato il 113 e si è suicidato. In una lettera ha scritto di essere oppresso da problemi insormontabili, ai colleghi del 113 ha detto venite a casa mia, vi lascio la porta aperta, ho ucciso tutti. E adesso questa notizia particolare, la donna dell'anno è un uomo, Bono Vox, donna dell'anno di Glamour, la classifica compilata dalla rivista patinata americana sulle rappresentanti femminili che più hanno contato nel 2016, contiene una sorpresa, il cantante irlandese è il primo uomo a guadagnare il titolo e la decisione sarà celebrata in una cerimonia che avrà luogo il 14 novembre a Los Angeles. Il frontman degli U2 è entrato a far parte della lista grazie al suo impegno civile e sociale per le donne che nel 2016 si è tradotto nella campagna Poverty il sexismo, la povertà e il sessismo. In un'intervista rilasciata all'agenzia AP, la direttrice della rivista ha spiegato che esistono molti uomini che stanno facendo cose meravigliose per le donne e Bono è uno di questi. Chiudiamo con il calcio, con Champions League, e chiediamo se c'è qualcosa di meraviglioso da parte della Juventus a Dario Ricci. Ma cara Roberta, non userei tutta questa enfasi, ma la Juventus è comunque in vantaggio sul Lione quando siamo al 33esimo di gioco allo Juventus Stadium. Bianconeri avanti per 1-0, decide finora il calcio di rigore al 13esimo di gioco siglato da Gonzalo Higuain. C'è stata un'incursione bianconera sulla sinistra, la palla che stava per arrivare a Mandzukic, che è stato spinto alle spalle da Diakabi. L'arbitro cui ci ha pensato pochi istanti, poi ha indicato il dischetto, calcio di rigore trasformato poi da Higuain. Juventus che poi è andata vicino al raddoppio al 25esimo con un destro dal limite al volo di Marchisio, che ha scheggiato il palo alla destra di Lopez. Ma attenzione anche al Lione, perché all'ottavo minuto c'erano venute le solite provvidenziali manone di Gigi Buffon per respingere in angolo una conclusione di Rebus. 33esimo di gioco, Juventus 1 Lione 0 allo Juventus Stadium a Torino. Grazie Dario Ricci, poi ci collegheremo naturalmente per vedere un po' come procede la partita. Ora invece i vostri messaggi procedono sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Emanuele dice: non si è mai visto un presidente americano fare il galoppino elettorale per un candidato come l'infausto Obama per la perfino peggiore Clinton. Di fronte a questo schifo Trump sarebbe meglio perfino se fosse Satana incarnato. Un po' esagerato, Emanuele, questo ascoltatore. Comunque mi colgo l'occasione per dire che poi martedì prossimo, 8 novembre, quando si voterà, ci sarà una lunghissima non stop diretta qui a Radio 24 che inizierà alle 21 con Effetto Notte e proseguirà fino all'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Poi un altro ascoltatore che dice: i terremotati dei precedenti terremoti sono di serie B, vivono da anni ancora nei container. Io voto no, dice Marco Varese. Beh, intanto non sarà responsabile di tutti i precedenti questo governo. È vero che molti ancora stanno nei container, non so bene a quali esattamente si riferisca, però pare che anche per i nuovi sfollati si parli, leggevo prima un dispaccio della Protezione Civile, di almeno 10 anni per la ricostruzione. Adesso quindi non so se sistemeranno un po' prima comunque gli sfollati in situazioni diverse dai container, però si parlava di 10 anni, insomma, quindi i tempi purtroppo sono lunghi. Brevi invece tempi di aggiornamento per chi sta viaggiando, ci risentiamo tra pochissimo. Pagina Facebook di Effetto Notte se volete interagire, oppure 349-238-6666. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie in 60 minuti, come sempre, per avere il quadro della giornata chiaro, prima il riassunto delle notizie più importanti e poi, come sempre, con Effetto Notte, con voi sempre Roberta Giordano, gli approfondimenti di alcuni temi in particolare. Tra poco cominceremo col primo ospite, e fra poco vi ricordo anche i titoli più importanti. Voi continuate con le vostre osservazioni, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ancora alcuni messaggi su Trump e Hillary Clinton, ringrazio il messaggio spiritoso sul vampiro di questo ascoltatore. E poi dice: il lamento del muro del pianto assomiglia a Fratelli d'Italia, secondo un ascoltatore. Prima abbiamo sentito la protesta delle donne al muro del pianto a Gerusalemme oggi. Bene, andiamo sulle cose serie e vi ricordo, naturalmente sono le battute, non sono serissime, ma l'argomento del muro del pianto e della protesta delle donne era serissima. Questi i titoli principali di oggi. Il sisma ha spostato Norcia a ovest, deformati 600 km quadrati nel territorio. Il presidente Mattarella oggi è andato nei luoghi del terremoto e ha detto: tornerà tutto come prima. Intanto sono 26.000 gli assistiti. Coro di no ad Alfano, che ha aperto l'ipotesi di rinviare, di far slittare il voto del referendum. Niente rinvio per il referendum, stop di Renzi, oggi l'ha detto a Radio 24, stop anche da parte dell'opposizione. Intanto c'è attesa sul ricorso del costituzionalista Onida. E poi presidenziali americane, Trump, la possibile sua vittoria spaventa i mercati, borse giù e spread in tensione. Per quanto riguarda l'Iraq, si continua a combattere a Mosul, al Baghdad il capo del sedicente califfato sarebbe proprio nella città irachena. I curdi dicono: se cade lui finisce l'ISIS. Intanto la denuncia è che i bambini sarebbero usati come kamikaze. Campagna americana, le ultime battute. Obama difende Hillary Clinton, dice: la conosco, le credo, a proposito dello scandalo sulle mail. Occhi puntati sugli swing states, cioè dove quelli che sono appunto gli stati cruciali per la vittoria di uno o dell'altro. Per quanto riguarda la Francia, via dalla giungla di Calais, 1500 tra bambini e ragazzi oggi dopo la trattativa con Londra, in 700 sarebbero in viaggio verso la Gran Bretagna. E poi questa strage familiare a Genova, un triplice femminicidio, un agente uccide la moglie e le figlie e poi si suicida. Nella chiamata al 113 dice: problemi insormontabili, li ho uccisi tutti. E questa invece notizia di tecnologia: il mondo naviga con smartphone e tablet, sorpassati quindi i PC a ottobre, questa è la prima volta, ma l'Italia sarebbe in controtendenza. Quindi avete sentito in parte Renzi oggi, che è intervenuto a Radio 24 a Effetto Giorno, ospite di Simone Spezia, ha trattato tanti argomenti naturalmente come sempre, soprattutto ha detto no a questa ipotesi di Alfano di un possibile slittamento del referendum, ma questo lo faremo sentire dopo. In realtà adesso parliamo di quello che ha detto Renzi a proposito di questa frizione che dura da diverso tempo tra il governo italiano e la Commissione Europea sui conti pubblici. Ma la frizione c'è da sempre, se diamo retta e ascolto al continuo chiacchiericcio che si esprime non attraverso documenti ufficiali ma le indiscrezioni filtrate dal portavoce della commissione X, Tizio Caio Sempronio, che sussurra al suo amico giornalista. È un grandissimo mondo, una grandissima bolla mediatica meravigliosa, un Truman Show che appassiona gli addetti ai lavori. L'Europa inizi, anziché a dire, a dare qualcosa all'Italia, visto che noi tutti gli anni mettiamo 20 miliardi nel bilancio europeo, ne recuperiamo 12. E poi, a proposito invece delle spese per il terremoto, fuori dal patto di stabilità, sentiamo che cosa ha affermato Renzi. Perché stanno fuori dal computo del patto di stabilità? Perché un paese che ha avuto in 7 anni tre terremoti in sette anni, è evidente che ha il terremoto come clausola di evento eccezionale. Dunque, quando lei parla di ulteriori spese, lei definisce extra deficit, diciamo così, queste spese qui sono spese che stanno fuori dal patto di stabilità. Chi lo ha previsto questo? Una decisione di Renzi contro l'Unione Europea? No, il trattato dell'Unione Europea, i regolamenti dell'Unione Europea nel 1997 prevedono espressamente questa regola, che è di buon senso. Renzi ha inoltre detto che l'Italia è pronta a aumentare il deficit pubblico se dovessero servire ulteriori risorse oltre a quelle già stanziate per far fronte alle spese appunto di ricostruzione post terremoto. Sentiamo. Tu hai già sul 2017 uno spazio di circa 3 miliardi di euro, che diventano 5-6 nell'arco del 2018 sulla base delle necessità, cioè non c'è un stanziamento specifico, puntuale, perché ancora non sei in grado di capire quanto ci vorrà, quanto servirà per rimettere a posto la casa degli abitanti di Norcia, ancora non abbiamo i danni, è accaduto 3 giorni fa, allora ci sono degli spazi di azione, poi se vi sarà bisogno di avere più risorse, ricorrendo a ulteriori spazi, in questo caso di deficit, se ci sarà bisogno per rimettere a posto, noi metteremo i denari necessari. Ora invece andiamo al tema che è stata la polemica del giorno a proposito del referendum. Il ministro dell'interno Alfano, nonché leader dell'UDC, aveva aperto all'ipotesi di rinviare il voto sul referendum, che sarebbe il 4 dicembre, però poi Renzi, sempre Renzi appunto, sempre a Effetto Giorno su Radio 24, oggi ha detto assolutamente non c'è minimamente nell'aria l'ipotesi, sentiamolo. L'ipotesi dello spostamento del referendum però non esiste, punto. E del resto, da quello che ho capito, Alfano l'aveva messa in tono dubitativo. Indipendentemente da come è stata messa da lui e da altri, non perdiamo tempo in queste vicende. Cioè, chi come me ieri era in un campo gestito dalla Caritas che accoglie le persone che sono terremotate non si preoccupa della data del referendum. Noi facciamo la nostra campagna, il referendum è una cosa bella, permetterà ai cittadini di esprimersi, sarà una campagna elettorale in cui decideranno le persone e quando decidono le persone va sempre bene. Io trovo che questo dibattito sia abbastanza surreale. Quindi diciamo così l'ha liquidato Renzi. Vorrei su questo che intervenisse Elisabetta Fiorito, la nostra Elisabetta da Roma. Ciao Elisabetta. Buonasera radioascoltatori. Perché in realtà i maliziosi dicono che in qualche modo è stato il capro espiatorio Alfano, che in realtà forse c'è stato un gioco delle parti. Pare strano che sia stato lui a prendere così l'iniziativa d'amblè, senza che, dicono, o non si parlano il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno Alfano, o qui appunto c'è qualcuno che ha fatto aleggiare questa ipotesi. ipotesi, poi Alfano l'ha fatto da portavoce e alla fine invece è stato smentito. Che complottismo tu vedi dietro questa polemica di oggi, Betta? Diciamo che io non sono complottista, quindi in teoria non vedo nulla. Certo, c'è un gioco delle parti di capire se effettivamente era giusto con questo allarme del terremoto che persiste da quest'agosto, ricordiamolo, magari fare svolgere una consultazione che poteva essere anche deviata da un'emotività. Questo credo che sia stato il ragionamento di Palazzo Chigi e anche di Renzi sicuramente. E Alfano ha detto un'altra cosa, infatti Renzi ha detto, Alfano l'aveva posto in forma dubitativa, quindi è chiaro che i due forse potevano essere d'accordo, cioè se le opposizioni ritengono che non si debba in questo momento esacerbare il clima politico tra fronte del no e fronte del sì e magari rimandiamo tutto, se le opposizioni lo chiedono il governo è pronto. Le opposizioni hanno letto questa apertura in realtà come una paura del governo perché il fronte del no viene dato in vantaggio. Ecco, questo è in sostanza... Per loro significava strumentalizzare l'emergenza terremoto. Se il governo dovesse strumentalizzare l'emergenza terremoto... Questa era l'accusa di Brunetta, mi sembra. Sì, però se paradossalmente il terremoto... i radioascoltatori non devono pensare assolutamente a un cinismo... Può rafforzare il governo se il governo agisce bene, no? Cioè può rafforzare, stiamo parlando in termini ipotetici di un qualsiasi terremoto. Però mettiamo caso che Renzi va in Umbria, va dai container, poi dà subito le case, quindi non mettere pochissimo tempo le tende, eccetera. Questo può rafforzare l'immagine del governo e se il referendum poi è stato molto personalizzato da Renzi, allora il fronte del sì potrebbe crescere. Per dire. Quindi questa tesi secondo me è un po' debole. Di certo c'è il fatto che magari invece Renzi teme questo appuntamento perché comunque ha canalizzato tutta l'attenzione della politica e lui non è più certo, così certo di poterlo vincere. Allora intanto, intanto rimandiamolo e poi vediamo. Però paradossalmente un voto favorevole al governo è proprio se si vota adesso, non se si vota in futuro. Questo è certo. È un discorso molto brutto da fare con tra referendum e terremoto, no? Ma un'emergenza nazionale generalmente, ecco, la possiamo avvantaggia il governo. Funziona così, insomma, ecco, la politica e l'emotività. Stiamo parlando sempre in termini ipotetici. E soprattutto di assoluto rispetto per le persone che non hanno casa, certo. E poi purtroppo per le vittime che ci sono state, non questa volta ma ad agosto. Però un'emergenza nazionale, l'abbiamo visto anche quando c'è stato il rapimento Moro, no? Cioè storicamente potrebbe mettiamola così, avvantaggiare il governo. E di questo comunque del terremoto invece parleremo tra pochissimo. Grazie Betta Fiorito da Roma. Grazie a voi. Ciao Betta. Poi infatti parliamo del terremoto in centro Italia, le terribili scosse dal 24 agosto e poi quelle del 26 ottobre, poi l'altra domenica, il 30 ottobre, quella di 6.5 gradi di magnitudo che ha generato il sisma più forte da quando un terremoto rase al suolo l'Irpina nel 1980. L'epicentro, come sapete, è stato a Norcia, in Umbria, nella zona più duramente colpita dagli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre. Come sapevate, nessuna vittima per fortuna, però molti feriti, danni gravissimi, estesi agli edifici, al patrimonio artistico e storico, alle abitazioni, paesi devastati che ora rischiano, come temono i cittadini, i sindaci, di diventare fantasma. Migliaia gli sfollati e tra l'altro c'è questa cosa anche particolare di uno spostamento all'interno di questa zona si trova la depressione più profonda, ossia l'area di 130 km quadrati in cui il suolo si è abbassato fino a 70 cm nell'epicentro, e quanto hanno permesso di definire le analisi dei dati arrivati dai satelliti sui quali i ricercatori ora stanno lavorando in queste ore. Sono ingenti, dicevamo, i nuovi danni nel cuore dell'Italia centrale. Norcia è in ginocchio. Mattarella oggi ha incontrato gli sfollati e ha detto: Norcia tornerà come prima, sarà lunga, ci vorrà tempo, ma tornerà bella come prima. Sentiamo che cosa ha risposto il sindaco di Norcia, Nicola Lemanno. La visita del Presidente della Repubblica è qualcosa che dà entusiasmo, ridona un po' quell'energia che avevamo indubbiamente perso. Sono due mesi che siamo in emergenza. Il 24 agosto eravamo stati colpiti da un terremoto, il 26 ottobre siamo stati colpiti da un terremoto fortissimo, il 30 ottobre siamo stati colpiti da un cataclisma. E al Presidente abbiamo chiesto di aiutarci a ricostruire la Basilica di San Benedetto, di non lasciarci soli, e lui addirittura ha detto: sentiamoci se ve ne è bisogno, quindi teniamoci in contatto, faremo tutto quello che uno Stato come quello italiano deve fare. E l'area di Norcia si è spostata di 30 centimetri verso ovest a proposito delle modifiche, no, del terreno, del territorio che ci sono state, e lì c'è il nostro Mariano Maugeri, inviato dal Sole 24 Ore. Ciao Mariano. Buonasera, ciao. E sei lì sul territorio da diversi giorni. E oggi, yeah. Oggi che cosa hai visto? Ma oggi ho incrociato diversi imprenditori che sembrano in questo momento la parte debole. Carità, poi le famiglie, gli anziani, i bambini vanno portati e preservati in primis, però come dire, non si è pensato ad una corsia preferenziale e non si è calcolato che gli imprenditori, a differenza dei cittadini normali, non possono trasferire le aziende in un hotel di Civitanova Marche o di San Benedetto del Tronto, dove sono rifugiati gli sfollati. Esattamente, cioè. Non possono andare in albergo le aziende, sono due cose incompatibili. E quindi c'è un fortissimo disagio, ci sono delle imprenditrici con genitori anziani che non sanno dove sbattere la testa, ci sono dei giovani agricoltori che hanno fondato delle start-up proprio qualche mese fa e che sono stati in qualche modo osteggiati dal sindaco perché chiedevano una tenda e un container per lavorare i stilli dello zafferano, perché questo è il periodo della raccolta, e invece questa cosa non è stata possibile, è dovuta intervenire Caritas, che nomen omen, in modo caritatevole, ha noleggiato un camper e l'ha offerto a questi ragazzi per il periodo della raccolta del crocus, che è il fiore da cui poi si ricava lo zafferano. Poi ci sono degli albergatori storici di Norcia, i Bianconi, hanno tre hotel famosissimi nel mondo, ospitano californiani, coreani, neozelandesi, hanno una clientela molto affezionata. Ed è un danno certo anche per il turismo. No, uno dei loro hotel è crollato e mi diceva appunto il fondatore, il governo per noi ha solo previsto un finanziamento a fondo perduto del 10% sostanzialmente, quindi nulla a che vedere con le case, le prime e le seconde case che come sappiamo saranno ricostruite al 100% a spese della collettività. E lui ha detto: se sono queste le condizioni, allora anch'io me ne andrò da Norcia, anche perché è stato abbandonato alla terza scossa. Molti dei suoi dipendenti, rumeni, macedoni, siciliani, pugliesi, non hanno chiesto neppure la cassa integrazione, si sono licenziati, sono saliti in macchina con moglie e figli e sono andati via perché hanno detto: beh, allora questa cosa è sistemica, non è un fatto episodico. Hanno rinunciato al lavoro, quindi sono delle situazioni molto molto particolari, di grande tensione. C'è un ascoltatore, tra l'altro Salvo da Vicenza, che dice: perché a ricostruire le chiese non ci pensa il Vaticano, i mezzi non gli mancano. Qui non so, poi vedranno con lo Stato italiano. Questa è una polemica antica. Se c'è il contributo da parte del Vaticano. Poi vedo adesso, Mariano, una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica alle 20:37, e adesso la notizia, in un'area compresa tra le province di Perugia e Macerata, la stessa interessata dai terremoti del 26 e del 30. Tu l'hai sentita? Come no? Io mi sveglio con le scosse, mi addormento con le scosse. Ormai sono a 40 chilometri in questo momento da Norcia, ma è ancora la zona del cratere, per cui le scosse si sentono continuamente. Alla fine ci si abitua, ovviamente se stai al caldo in un posto confortevole, certo, se stai in tenda, insomma, con te. Diciamo a te va meglio che ai poveri cittadini sfollati. Grazie Mariano Maugeri da Norcia. Ciao, buon lavoro, ciao, Mariano. Ciao. Direi di prenderci questa pausa a questo punto. Voi continuate a interagire sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp e SMS al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, Roberta Giordano con voi. Continuiamo quindi dopo il riassunto della giornata e dopo esserci collegati con l'inviato del Sole 24 Ore, Mariano Maugeri, a Norcia, epicentro dell'ultima fortissima scossa di terremoto. Vi dicevo poco fa, è arrivata anche la notizia che c'è stato un altro sciame intorno alle 9:15 di verso le 21 di altre scosse, purtroppo continueranno, come hanno detto anche i sismologi. Adesso continuiamo su questo tema. Vedevo un altro messaggio, un ascoltatore, dopo quello precedente, che tra la pagina Facebook di Effetto Notte, i vostri messaggi, oppure il 349-238-6666, chiedeva perché il Vaticano non contribuisce a ricostruire le chiese. Quest'altro ascoltatore, Stefano Dall'Aquila, dice: perché non si risponde mai nel merito sul fatto che lo Stato italiano paghi la ricostruzione delle chiese? Andate nella frazione di San Gregorio dell'Aquila, dice... A 7 anni e mezzo dal terremoto è stata ricostruita solo la chiesa, tutto il resto è ancora un cumulo di pietre e i residenti vivono ancora nelle casette di legno. Questa è la denuncia di Stefano Dall'Aquila. Adesso restiamo, vi dicevo, sul terremoto. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, quali sono le notizie più importanti del giorno. Presidenziali americani, Obama difende Hillary sul caso delle email, critica l'FBI, non operiamo, dice, sulla base di soffiate, e i timori su una possibile vittoria di Trump mandano in rosso le borse europee. Terremoto, il Presidente della Repubblica Mattarella in visita nelle zone terremotate assicura, faremo tutto quello che uno Stato può fare. Referendum Renzi a Radio 24, taglia corto sulla proposta di Alfano di rinviare il voto, non esiste, dice, nessuna ipotesi di slittamento. Iraq, ci sarebbe anche il capo dell'ISIS al-Baghdadi fra i vertici del califato rifugiati a Mosul. Strage familiare a Genova, un poliziotto uccide la moglie e le due figlie nel sonno, poi chiama il 113 e si suicida. Calcio per la Champions League, a Torino la Juventus in campo contro il Lione a caccia degli ottavi di finale, per il momento conduce la Juventus per 1-0. E continuiamo a parlare di terremoto con Cesare Spuri, capo protezione civile delle Marche. Dottor Spuri, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, parlavamo prima con l'inviato del Sole 24 Ore della situazione ancora a Norcia e nei dintorni. Senta, l'ultima notizia è che le persone assistite, gli sfollati al momento della protezione civile sarebbero 26.000? Ma guardi, in questo momento, per quello che riguarda le Marche, le parlo un po' del report che facciamo raccogliendo... Sì. I dati dei comuni e con un diciamo così, con un'assistenza proprio di prossimità presso tutti i comuni. Questa sera rileggevamo gli ultimi dati e abbiamo cifre che sono intorno addirittura alle 40.000 persone. Sono numeri molto elevati, da tenere presente che in questo momento è abbastanza difficile. Ad esempio, alcune stime ci dicono che abbiamo oltre 14.000 persone che diciamo soggiornano, stazionano la notte ancora nelle auto, e quindi per un effetto anche paura o forse perché ancora non hanno assunto decisioni definitive su come collocarsi. Sono numeri comunque che anche se fossero 20.000, insomma, rappresenterebbero sicuramente elementi di grande difficoltà. Lo sforzo in questo momento è proprio quello di cercare di capire con una vicinanza a tutti quanti i comuni. Nelle Marche noi in questo momento stiamo assistendo oltre 100 comuni, quindi nelle tre province. È uno sforzo molto importante, però la vicinanza che cerchiamo di avere, soprattutto nelle situazioni più gravi, poi è quella che ci può più rendere giustizia delle cifre che poi diciamo. Spuri, secondo lei in quanto tempo sarà possibile sistemare tutte queste persone e dove? No? Perché tanti giustamente reclamano di poter avere delle casette di legno, i container, però ci vuole del tempo ancora? Ma guardi, io dico questo, lo dico anche da marchigiano, da persona che è attaccata alla terra esattamente, tanti amici di queste zone che conosciamo molto bene. È saggio e comprensibilissimo il senso di attaccamento alla terra. Vicino a questo però ci va messo anche che cosa posso fare per fare effettivamente questo. Allora, dire soltanto io non me ne voglio andare non ci porta da nessuna parte. Dormire in una macchina non può essere una soluzione per i nostri giorni, no? Per quello che facciamo, per la nostra salute, per i nostri figli. E allo stesso modo pensare alle tende, ormai l'abbiamo ampiamente detto, penso condiviso da tutti, con le temperature che sono ormai prossime a pochi gradi sopra lo zero, non è nemmeno una soluzione. Allora, se c'è una soluzione intermedia, tampone, container, no? che siano container sociali o singoli, che dir si voglia. È un container come comunque posizionato, ci va fatto un allaccio della luce, va portata via una fogna, va in presa dell'acqua, va fatto un minimo di fondazione. I tempi strettamente necessari e prima di tutto contare quanti container, perché se io che 12.000 persone ad oggi stimiamo stanno dormendo delle macchine e in totale sono 40.000, la domanda è: ma degli altri 28.000 tutti il sogno di un container, oppure qualcuno potrebbe anche fare ritorno nella propria abitazione perché magari agibile. Ecco, quindi sono tutti dati. Vanno fatte ancora queste valutazioni, quindi. Assolutamente, ma io direi stiamo comprimendo al massimo tutti i tempi, ma quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, Renzi, dice con un paio di mesi fatelo, ci assegna un compito molto arduo sul quale stiamo spendendoci al massimo con tutte le forze. Quindi lei dice, ha detto 2 mesi la scadenza, però bisogna vedere poi cosa sarà possibile fare. Spuri, un'ultima cosa, dal terremoto del 24 agosto, se non sbaglio, si era detto che la gente comune aveva inviato vari beni necessari, dalle coperte, medicinali, eccetera. Adesso di cosa avreste bisogno e dove bisogna inviare, rivolgersi, se si vuole aiutare? I numeri sono sempre quelli, perché perlomeno per quello che riguarda la Regione Marche, i punti di attracco, diciamo, per le proprie donazioni sono quelli. E attenzione che dobbiamo, anche qui abbiamo installato 8-10 cucine da campo. Allora, con il terremoto del 24, ad un certo punto correvamo il rischio di vedere andare in deperimento molto materiale alimentare. E adesso con la ripresa delle cucine e con la sistemazione di questi pasti probabilmente ne avremo bisogno, ma anche qui, se siamo in una soluzione tampone, se vogliamo 4 mura calde, no? Per una famiglia, per delle persone, le mense non continueranno ad andare avanti per chissà quanto tempo. Quindi grazie per tutte le donazioni, per tutto quello che arriva. Noi monitoreremo, abbiamo creato un'area di ammassamento adesso a Macerata per tutta la parte Ciratese, che ha una forte percentuale di danneggiamento nella regione con queste ultime scosse. Ecco, magari essere sensibili quando un attimo si danno i segnali che è bene fermarsi per non sprecare. Chiarissimo. Cesare Spuri, ricordo, capo protezione civile delle Marche, io la saluto e la ringrazio moltissimo per il suo lavoro così, così impegnativo, così difficile. Grazie allora, buona continuazione. Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori. Grazie, buona serata. Viabilità e poi di nuovo insieme. Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Continuano le notizie, vi ricordo le principali velocemente. Il sisma ha spostato Norcia a ovest di 30 centimetri, deformati 600 chilometri quadrati del territorio a causa delle forti scosse. Il presidente Mattarella della Repubblica oggi era prima a Camerino e poi a Norcia, ha detto tornerà tutto come prima. Intanto si parla di 26.000 assistiti, ma avete sentito il capo della protezione civile delle Marche che insomma dice le valutazioni sono ancora da fare per dare dei numeri fondati. Poi coro di no ad Alfano alla sua proposta di rinviare il voto sul referendum, niente rinvio, dice Renzi a Radio 24, un coro di no anche dalla parte delle opposizioni, intanto si attende per il ricorso del costituzionalista Onida. Per le presidenziali americane, Trump spaventa i mercati, borse giù e spread in tensione. E poi, sempre per quanto riguarda la campagna americana, le ultime battute, Obama difende Hillary Clinton a proposito della vicenda delle mail, dice la conosco, le credo, e gli occhi intanto sono puntati sugli stati cruciali per la vittoria di uno o dell'altro. E poi via in Francia dalla giungla di Calais in 1500 tra bambini e ragazzi, oggi trasferimento definitivo, dopo la trattativa con Londra in 700 di loro sarebbero inviati verso la Gran Bretagna. E poi dramma a Genova, un agente uccide la moglie e le figlie si suicida alla chiamata al 113 in cui ha detto problemi insormontabili, ho ucciso tutti. Il mondo naviga con smartphone e tablet, sorpassati i PC a ottobre, è la prima volta in assoluto, ma l'Italia è in controtendenza. E poi per quanto riguarda la partita di Champions League della Juventus contro il Lione, si prosegue con 1-0 per la Juventus. Youzone, incontro con gli europarlamentari.